oggi è il giorno più lungo, è arrivata l'estate, il sole è a picco sul mondo, le cose sono intrecciate.